Cerchiamo di passare l'idea che la salvezza è dono gratuito di Dio e quindi non è legato. Gli esami di coscienza, dite che la smetta di fare gli esami di coscienza anche quando andate a confessarvi, se volete ancora andare, smettetela con gli esami di coscienza. Ecco, se esame di coscienza significa rinvangare il passato. E dire, oh, per carità, ho fatto quello, chissà Dio, ho fatto quell'altro, chissà Dio, ma Dio non sa che l'hai fatto, perché Dio ha voltato le spalle dall'altra parte. Dio è amore e non guardava il tuo disamore. Abbiamo questa idea, che è la più giusta, secondo me, di Dio. Perché la salvezza è dono gratuito, non è legata ai nostri meriti. Mettete pure che quelli di Padre Pio siano un po' più grossi dei padri meno pii, ma non per quello. Padre Pio ha diritto, faccio parlare per sempre, Anch'io ho pensato al registratore. Pensate, se questo non è un miracolo, chi mai, per quanti millenni non sono mai riusciti a far parlare gli orologi. Se 200 anni fa avessero detto l'orologio parla, nessuno ci avrebbe creduto, sei pazzo. Adesso invece no, gli orologi parlano, sentite. Dall'ora, dalla sveglia, da tutto. E questo è molto sensibile, ma sta facendo bene, perché cerchiamo sì di passare all'idea, prima di tutto essere convinti in noi, e poi passare la salvezza, dono gratuito di Dio. E come Dio è padre per tutti, dona la salvezza a tutti. Quindi anche se fossimo dei delinquenti, Dio ci dona la salvezza ugualmente se crediamo nel suo amore. Questo non significa che vale lo stesso essere delinquenti o non essere delinquenti, è ancora un'altra questione. No? Ecco. La salvezza è assicurata in Gesù. È assicurata in Gesù. Cerchiamo di passare l'idea che Dio perdona i nostri peccati prima ancora che glielo chiediamo. È bella questa idea, vale anche per la Messa, perché questa nostra Santa Madre Chiesa che si dimentica di essere madre e diventa matrigna di continuo, tutte le volte che celebriamo l'Eucarestia, ci fa mettere in dubbio il perdono di Dio. Perché ci fa chiedere perdono a Dio. C'è un forte movimento liturgico nella Chiesa che fa capo ad alcuni grandi liturgisti che sta battendosi per togliere il confiter dall'inizio della messa. Perché dice mettiamo in dubbio tutte le volte il perdono di Dio. Ma se gliel'abbiamo già chiesto, se Dio ci ha già perdonati, perché mettiamo in dubbio che ci ha perdonati e continuiamo di nuovo a chiedere un'altra volta perdono? Va bene che avremmo bisogno magari da una domenica all'altra di farci perdonare qualcosa, ma insomma perché richiamare? Vi ricordate che una vecchia spiritualità ci diceva che ogni tanto bisognava fare la confessione generale dei peccati, poi soprattutto una volta all'anno bisognava richiamare tutti i peccati, soprattutto bisognava andarsi a confessare con la lista dei peccati, se voi dimenticavate, trascuravate un peccato mortale, facevate un sacrilegio. Abbiamo vissuto gli anni più belli della nostra giovinezza con queste ossessioni qui e tante, ecco, o se ne sono liberate o se ci sono ancora dentro, è terribile, è terribile. Passiamo invece all'idea che Dio perdona i nostri peccati prima ancora che glielo chiediamo. Né più né meno come fate voi genitori nel confronto delle mancanze dei vostri figli. Non ci pensate nemmanco che possano mancare verso di voi. Date per scontato che non fanno peccati nei vostri confronti. Difatti i genitori sono sempre disposti a perdonare i figli e in genere non li accusano mai, li difendono sempre. Ma questo è nella natura dell'amore. Allora se già così fanno. Fate voi che siete, direbbe Gesù, meno buoni del Padre Eterno, a maggior ragione il Padre. Questa è un'idea molto umana, ma ripeto, Dio è diventato un uomo, allora partiamo dall'esperienza umana che diventa esperienza divina, la lezione divina è divina. Lo dicevo ieri a scuola di seminario, cioè, nonostante tutto mi chiamano ancora, quest'anno ero quasi contento, perché fino a una settimana fa ho detto, non mi hanno più chiamato, vuol dire che hanno detto al vescovo quello che io dico in classe anche contro di lui, e allora non mi chiama più. E invece mi arriva la gente un sacco di ore, quando io adesso che ho 80 anni, ma scherzate, un sacco di ore. Perché non ce l'hanno più nessuno. Allora, l'ho detto anche a loro questo pensiero, ma figuratevi un po', sono lì, tremano tutti a sentire queste cose, perché sembra che scalziate tutta l'ortodossia, ma non sarà questa la vera ortodossia. Dio è un Dio che è un po' diverso da come possiamo fabbricarlo noi. Dio che ci ha presentato Gesù. E se seminari sono vuoti sarà perché questo Dio non piaceva molto? Certo. La lezione divina? Ecco la lezione divina, ho detto. La lezione divina, ho detto, aspettiamola con la lezione divina. Facciamo la lezione umana. Perché no? Perché presentavo nell'anno di introduzione un bell'articolo di padre Benoit, che è uno dei grandi biblisti della Bibbia di Gerusalemme, morto l'anno scorso soltanto, che lavorava a Gerusalemme, l'Ecole Biblique di Gerusalemme, ha scritto un bel libro che se lo trovaste ancora di quasi 40 anni fa, il Dio parla il linguaggio degli uomini, è l'incarnazione, la legge dell'incarnazione. Allora, Dio parla il linguaggio degli uomini, la verità nella Bibbia. Sottotitolo Dio parla il linguaggio degli uomini, se ancora lo trovate, è dell'editrice, adesso l'editrice non Padre Benoit. Padre Benoit. Benoit. Ma io ho scoperto che c'è la biblioteca lì dai domenicani. Sì, lì ce l'hanno. Lì ce l'hanno. Certamente, ecco. E lì Dio parla il linguaggio degli uomini. Allora, lei, per scoprire cosa ci ha detto Dio, dobbiamo affrontare il linguaggio umano della Bibbia, perché Dio si è condizionato al linguaggio. Allora, vedere come scrivevano, come pensavano, quali erano gli usi e i costumi degli autori biblici, soltanto quando avremo capito questo potremo attraverso questo arrivare alla lezione divina. Ma se voi partite in quarta per la lezione divina non ci arrivate mai, bisogna arrivarci attraverso, ecco, a Dio attraverso Cristo, attraverso la parola incarnata, quella di Cristo e quella degli altri autori biblici. Allora, lezione umana della Bibbia, o se volete essere onesti, capisco cosa i padri antichi volevano dire con la lezione divina, volevano dire che non dobbiamo fermarci alla Bibbia solo per interessi materiali, linguistici, culturali, certo dobbiamo arrivare a cogliere il senso profondo che ci indica il cammino da seguire per arrivare a Dio. Poi chi è che non capisce questo? Ma se dite solo lezione divina, in polemica per di più con gli studiosi della Bibbia, che invece andavano a cogliere l'elemento umano per capire meglio questa parola, allora non ci siamo, diciamo almeno lezione umano, divino della Bibbia. E poi penso che siate più che convinti che ci va questa lettura, questo sforzo, questa è la vera preghiera, non blatterare tante altre cose, faticare, sudare su un testo che crediamo ci dia nella fede la parola di Dio, passando attraverso l'itinerario della parola umana. Questa è una preghiera difficile, è una preghiera veramente costosa, non quella di disprezzare, per carità, perché tutti sappiamo che la preghiera, via Crucis Rosario, non è blaterare delle parole e pensare a quello che c'è, ai misteri che ci sono dietro le parole. Questo è difficile, le parole. Ecco, allora, è un Dio che perdona i nostri peccati prima ancora che glielo chiediamo, perché non si sente mai offeso. non ha bisogno di essere di e manca invece 40, perché poi va solo, segna persino per il cronometro questo, sai? E costa la bellezza di 24 euro, una cosa da niente. Bisogna comprarsi orologi d'oro che non parla, questo che di plastica parla. Ecco, possiamo, terminiamo dicendo, ecco, che possiamo recuperare, dobbiamo recuperare l'idea dell'offerta a Dio della sofferenza, ma in un modo nuovo. Che ci impedisce che possiamo farlo in un modo nuovo? Non vi sembra? E il modo nuovo è questo: continuare ad amare Dio testimoniandogli la nostra fedeltà anche nel momento difficile e buio del dolore, della sofferenza, della morte. No. Se noi arriviamo a questo, certo che abbiamo dato a Dio la sofferenza, ma in un modo nuovo, modo degno di Dio e dell'uomo. Ecco, continuare ad amarlo nonostante la nostra sofferenza, continuare ad amarlo e a testimoniargli la nostra fedeltà anche nel momento difficile. Padre, se è possibile, nel momento difficile. Forse magari anche arrivando a gridare quello che uno degli evangelisti mette in bocca a Gesù sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Per poi, usiamo di fiducia, come sapete, comincia così, ma la finale è tutta diversa. Ma questo non toglie che l'evangelista abbia voluto farci capire anche lo stato disagio in cui si è trovato Gesù nei confronti del Padre, a cui amore e suo credere. Ecco, difficile nel buio del dolore, della sofferenza, della morte. Se veramente siamo stati come cristiani dei testimoni di amore e di vita durante la nostra esistenza, non ci sarà forse impossibile esserlo sino alla fine. Certo, se non siamo stati su questo versante, è sempre possibile una trasfigurazione in un secondo o in un centesimo di secondo, ma sembra più difficile. Se invece durante tutta la vita noi siamo stati cristianamente su questa linea, dovrebbe essere impossibile alla fine andare avanti fino all'ultimo respiro questa linea e concludere la nostra vita in questo modo, come Gesù, ecco, ha concluso la sua, ancora una volta avendo amato i suoi che erano nel mondo e mi amò sino alla fine, amando gli altri. Ecco. Concludo con una pagina di un autore, Claude Osterman, che è stato cappellano al centro ospedaliero regionale e universitario di Reims, il quale 30 anni fa aveva scritto un bellissimo articolo che vi segnalo e vi passo, se volete poi riprendere, volevo portarlo a stampare, non l'ho fatto a tempo, cioè meglio, non ci ho pensato per tempo e non l'ho fatto. L'articolo è questo qui, se volete, che era intitolato "Quale parola cristiana sulla sofferenza?". Io ho inteso un po' l'itinerario che ho proposto a fuori nelle sue riflessioni. L'articolo comunque era apparso sulla rivista Lumen Vitae del Centro Internazionale di Studi della Formazione Religiosa di Bruxelles, ma è del 1982, vale tutto, quale parola cristiana sulla sofferenza, punto interrogativo. Allora prendiamo una pagina di qui, poi vediamo il resto. Dice, il malato ha la possibilità di ritenere ciò che è essenziale per Gesù sofferente, ciò che è essenziale. È perché la sofferenza essenzializza la vita. Non vedere alcun bene nella sofferenza, non attribuirle alcun valore in se stessi, ma combatterla e continuare ad amarla. Quando la malattia porta a ripiegarsi su se stessa e a non più interessarsi che della propria situazione, il contrario dell'amore, dover pensare soltanto più a se stessa. Così una situazione dolorosa può testimoniare che la fede non è meno viva di prima, di quando stavate bene, che è ancora possibile amare, nonostante la triste situazione in cui possiamo trovarci, che la sofferenza non separa da Dio e che Dio non cessa di essere nostro compagno di strada. In questo senso, se così si arrivasse idealmente, almeno sognare le situazioni, ecco, in questo senso il malato è testimone del Vangelo, no? Sarete testimoni della risurrezione di Gesù proprio nel momento magari della nostra morte. In questo senso il malato è testimone del Vangelo, e cioè è portatore di lieta notizia di come si affronta, ecco, con un sorriso possibile interiore anche nel momento più difficile, e aggiunge lui come cappellano: io di questi testimoni ne ho incontrati molti. E io penso che chi ha pratiche di aiuto ai malati, ai morti, abbia nel cuore parecchie di queste testimonianze. Ecco di più, penso che sia opportuno dire. Allora, qui avete l'articolo, io ce l'ho sul computer. Chi vuole riceverlo via email, mi lasci l'indirizzo, se non me l'ha ancora dato, me lo lascia e io lo spedisco, e altri invece li possono lasciare a chi è a Franca o a Lorenzina l'indirizzo e glielo spediamo. Lo facciamo, ne fai, ti prendi l'impegno tu, o vedete un po' voi due. Vi segnalo anche, la diocesi di Saluzzo fa delle catechesi per le famiglie dei disabili, e quest'anno hanno invitato il teologo che va per la maggiore, Pierangelo Seguire, il quale ha fatto un incontro a Saluzzo. 31 marzo di quest'anno, la ferita e gli affetti, quando l'endica permette in crisi la fede, che io ce n'ho una copia, per esempio c'è fatto che si è andata a Luciana perché ha un figlio di 6 che profetizza anche un nipote, che è figlio dell'onorevole Delfino, che forte, perché sono una famiglia fortunata loro, no? Perché sono 12 figli, sì, sì, sì. Tutti uniti, tutti lui non può, e poi sono molto vicini a questa famiglia dell'onorevole che ha fatto presa, aveva sognato di poter trasferirsi in provincia soltanto per poter essere po' più vicino a casa, invece qualche altro gli ha fatto la forza, magari lo stesso suo partito, ecco. E quindi è verdade. E loro vanno perché stanno dando tutto perché possono a questa ragazza e di impegno. E allora è un articolo molto, se qualcuno interessasse, anche questo, intitolato lì, sulla la ferita e gli affetti quando l'handicap mette in crisi la fede, un tema della sofferenza, del dolore. Come? No, quello sul computer non ce l'ho. Si può sempre riprendere allo scanner un momento e trasformarlo. Tu ce l'hai lo scanner a casa? Franca? Sì, allora lo puoi fare tu oggi. Ma adesso sei molto impegnato per l'inaugurazione. Di un po' dell'inaugurazione. Invita, visto che io non potrò andare, non andrò perché sono troppo vecchio per fare cose. Parla da un momento. Una valera. Il desiderio. Che numero è? È il numero del codificio. Abbiamo da aggiungere qualcosa ancora su questo, poi discutiamo un momento se vogliamo continuare l'esperienza di questi incontri, magari anche ci possono rafforzare, perché ciascuno di noi se si impegna a trovare almeno una persona da convincerla, non costringerla, ma convincerla a venire, potrebbe essere ancora, anche se un numero così è altamente da apprezzare, dicevamo. E poi soprattutto se pensiamo alla qualifica vostra, ecco, le persone impegnate che vengono anche da lontano. C'è qualcosa, sì? Come? Sì, sì, sarebbe. Certo, certo. Però lasciami l'indirizzo dopo. Me l'avevi già lasciato? Ti ho già scritto anche... Sì, allora stampato. Allora forse ce l'ho. Lo concludiamo così. Concludiamo. A me veniva da pensare che la sofferenza degli altri che comunque si crea dei problemi, non da poco, alla luce di qualcosa. Vuol dire che noi dobbiamo pacificare questo. Difficile di un amico, di una persona, tanto più nel bisogno, adesso quello della malattia non è l'unico bisogno, è quello di farsi carico, mica solo di dire delle belle parole. Farsi carico, ma notate anche che passare, trasmettere, correggere delle idee in senso positivo è un carico grosso, è un bel farsi carico, è il carico più importante che ci possiamo fare e alle volte è l'unico che ci possiamo fare, perché mica potremmo darli a usare noi il bisturi se non siamo autorizzati. E quindi bisogna un po' vedere questa condivisione, questo farsi carico fin dove deve arrivare, fin dove può onestamente arrivare e come può svolgersi. Questo bisogna, ciascuno se lo fa perché quando è convinto che questo è veramente amare, si darà da fare se vuole essere su quella linea, cercherà di individuare il modo più giusto, più vero. Poi non ci sono solo sofferenze fisiche dove il bisturi può servire, ci sono delle sofferenze ben profonde, laceranti. E qui per fortuna non c'è nessuna formula, che la formula è un qualcosa che viene dal di fuori e che voi applicate la ricetta e viene fuori il pranzetto ed è pronto. No, e qui la formula è il cuore. No? E quindi la formula è da inventare da ciascuno, perché anche la formula più bella, se non la sentiamo dentro e la viviamo col cuore, no? Funziona, ma è qualcosa che probabilmente non raggiunge lo scopo. Se non quello della vecchia là dei promessi sposi, una zona che è così furba, se n'ha delle pagine che guardi. Alla vecchia dice, ma vada Lucia, non ho detto di dirle di farsi coraggio. Spesso la consolazione nostra degli altri questi, mi hanno detto di dirle di farsi curare, mi hanno detto di dirle che pregano per la sua salute, mi hanno detto di dirle che Gesù è buono. Veramente, tu dici, noi per esempio le due voci andiamo allo spiccio. Io lo so che non esce più vivo. Ma credo che una delle fatiche più grandi nella sofferenza sia l'accettazione, ma non nel senso di rassegnazione, ma io devo accettare la mia situazione, la mia malattia, perché ci devo convivere, no? Ci sono situazioni in cui la situazione della malattia, io devo imparare a convivere, quindi devo accettarla per poi riuscire all'interno di questo a lavorarci. Adesso per fortuna abbiamo tutti i malati terminali che per fortuna stanno a casa loro. Io trovo sempre che uno deve andare a muovere e morire in un'operazione giusta per l'ospedale Santa Croce a loro. Cioè dobbiamo, come sanitario, per poter andare a morire, non è possibile delegare all'ospedale la morte. Senso, è tutto nel farmacologico europeo, tanto il morte è un evento imprescindibile naturalmente, quindi quando uno è un malato terminale, comincia le famiglie, adesso la casa ti vale di sapere che sono disponibili, parlate con altri stati di ministero, che è la cultura, cioè inutile che noi carichiamo, per esempio sulla sanità, con tanti giorni di cuore di tutti, anche con nulla da fare. A mettere tanti punti di giro, sono del genere ancora problematico, cioè, quindi direi proprio una qualcosa anche per la politica sociale, io dico una cosa di riflessione, per le fortune che i nostri anziani, i nostri confronti della carriera. E questo è un parere molto importante, perché di oggi ci si domanda sempre all'altro la gestione dei problemi. E quindi prendersi a carico. Come lei dice, non può significare indirettamente anche questo, battersi per una soluzione sociale, anche naturale, naturale più sulla linea di una umanità, ecco, tenersi l'anziano in casa, per esempio, no? Tenersi vicino l'ammalato. Io guardo l'allontanamento addirittura dei bambini perché non vedono il nonno morire, ma che senso ha? I bambini non vedono il nonno morire, è una cosa naturale, dobbiamo, i bambini possono, è un dramma, per carità, questo è un tardi a capire. Questo lo sono accorto, certo. Perché noi non immaginiamo, certo. L'idea della morte è una cosa, che nessuno la vuole. Se ci vuole la società di oggi, dal punto di partivi tu, che la malattia è degli altri. La morte è del diavolo, invece dobbiamo vivere per fare i piani di altri, in questo modo di voler non più gestire la sofferenza e la malattia, di voler scandalosi nella città. E comunque tanto la morte e la malattia la dovrei gestire, farla gestire agli altri, farla gestire agli altri, è problematico, anche perché loro non sono voluti gestirla. Poi prima o poi ci saranno anche i medici per gestirla, se tu stai 2 o 3 mesi, 2 o 3 anni in ospedale per morire. Non ha nessun senso etico e sociale. Quindi dobbiamo riflettere molto nel campo sociale su come è possibile aiutare gli altri a morire e a guardare la sofferenza, non solo dal punto di vista religioso, etico, questo è un punto, ma proprio dal punto di vista anche di sociale e anche condivisibile da parte di tutti. La famiglia ci sono i vecchi, il vecchio deve mettersi in casa di riposo, dobbiamo credere il vecchio. Il vecchio deve stare a casa di riposo. E la sua destinazione è quella. Ma è questo che dobbiamo, io parere, cominciare con i cattolici, con i credenti, a rifiutarci in queste soluzioni. Se è possibile, non è possibile. Ma socialmente diventa problematico continuare a fare delle case di riposo e poi gestirle a 2 o 3 milioni al mese. Dobbiamo anche gestire perché non quindi dobbiamo assolutamente riflettere su queste cose. È opportuno che anche lì la Chiesa, la parrocchia, non facciano, continuino a voler gestire e a fare, a mio parere, anche il business nel mercato di lavoro. Perché in fondo, poi diciamo che lo chiama, che le parrocchie adoperano questo servizio delle carte di credito per entrare nel prelievo di introito. Quindi dobbiamo riflettere molto dal punto di vista anche dell'etica religiosa, della società di oggi, intorno a quello che dobbiamo fare di questa terra e di questi rapporti, perché lì è troppo male. Poi dopo convincere a morire bene o male, con quali idee muoiono queste religioni, è più relativo del resto. Prima dobbiamo risolvere il problema dove deve stare l'anziano, da chi deve essere stato l'anziano e se è opportuno che anche la Chiesa perdi questa sua grande, grande voglia di fare soldi e estendere tanti. Sono problemi non socialmente non identificati. La tentazione comunque di nascondere qualunque tipo di sofferenza, certo, è grande, è un po' un tentare di negarla. Ma poi ti torna non accettarla come fatto non delle ti ritorna fuori perché la vita poi ti fa fare i conti con queste cose, ci manda. Va bene, ringraziamo di tutti questi interventi, mi sarebbe importante avere tempo e continuare ancora a mettere a fuoco, ma dedichiamo qualche forza. Una aveva proposto di toccare il tema del perdono, io ho visto che poteva essere inserito nell'ultima delle cinque domeniche e l'ho inserito lì. Ecco, gli argomenti come vedete sono infiniti. Quali sarebbero gli argomenti? Gli argomenti che c'erano venuti in testa e mi erano soprattutto venuti in testa, poi ho passato a loro e loro mi hanno detto, mentre l'anno scorso erano loro che l'avevano proposta, quest'anno per fare in fretta, per arrivare un po' prima all'assemblea, sono permesso di suggerirli io e loro hanno detto ma farebbe bene, comunque vediamo un momento ancora. Ecco, dedicare un incontro al racconto dell'Annunciazione a Maria nel Vangelo di Luca. E qui come sviluppo metterei un certificato ginecologico o una pagina di teologia. questo è bello. Questo è grande. Tu mi aiuti poi. Poi abbiamo discusso chi può essere stato l'angelo Gabriele. Come Maria può dire non conosco uomo quando già era fidanzata a Giuseppe? Che significa che Gesù è figlio di Dio? E lo abbiamo spiegato stasera. Ecco, questo potrebbe essere un tema. Toccando l'Annunciazione a Maria, tocchiamo il racconto di Annunciazione nella Bibbia. Il genere letterario è il racconto di Annunciazione, è piena la Bibbia di racconti di Annunciazione, ma siccome i cristiani conoscono solo quelli a Maria e non si accorgono nemmeno che c'è il discorso uguale, lo schema uguale per l'Annunciazione a Zaccaria, per esempio, allora fanno dire a questo racconto, si inventano chissà, in posto la fontana di Nazareth, Maria sarebbe stata raggiunta dall'angelo, tempo creando dei sospetti vari. Cosa ne pare? Può essere un argomento. San Giuseppe è sempre stato vecchio e non giovane. Ne parliamo poi quei giorni. Certi. Secondo fissato per quando adesso non ho le date, fissato per? Forse le date avevamo già avuto, ma ho preso solo una parte, cade vicino a Pentecoste. Allora ho pensato che potevamo prendere spunto dal racconto di Atti 2 della discesa dello Spirito, come interpretare anche lì questo racconto materialmente. Cosa può essere accaduto e cosa significa. Allora ho messo, ecco, in coincidenza con la festa liturgica della Pentecoste, come interpretare il racconto di Luca, come e quando scende oggi lo Spirito Santo, quando arriva il Vescovo a dar la cresima, quando non arriva o si manda il vicario, lo Spirito sarà volentieri, la fetta sarà dimezzata. Ecco. E che cosa significa la presenza dello Spirito in noi? No? Come verificarlo? Uno ha lo Spirito di Dio e l'altro non ce l'ha. Come accorgersi? No? No? secondo potrebbe andare questo. Sì, tanto tocchiamo la questione dei generi letterari, dei modi di esprimersi nella Bibbia, facciamo vedere che la Bibbia non è storia, ma è teologia, poi dice delle cose storiche, la sua preoccupazione è l'interpretazione teologica di certi fatti. Terzo, il Dio violento dell'Antico Testamento, siccome c'è tanta gente che chiede, continua a chiedere, come mai la Bibbia, un Dio che infilza i nemici degli ebrei, che guida l'esercito contro l'altra domenica, no? Che c'era là di Mosè che prega là sul monte, e mentre pregava le braccia superstiziosamente stavano in alto, sorrette da Aronne e da Cur, perché anche loro poi si sono stancati, non la smette più, prendiamo delle pietre, allora, le mani con le braccia con i piedi, allora dicevano agli ebrei perché Dio che Mosè pregava interveniva, appena abbassava le mani i nemici prendevano il sopravvento. Ecco, il Dio violento della Bibbia che ha fatto fuori gli altri popoli per far posto a Israele, cosa vorrà dire? Oppure il Dio che condanna, ecco, quelli che peccatori, eccetera. Ho messo la Bibbia, parola di Dio, presenta spesso un Dio irato, nemico dei peccatori, in guerra contro i nemici di Israele. Il Nuovo Testamento è del tutto privo di sentimenti di vendetta attribuiti a Dio o a Gesù? Punto interrogativo. No, perché anche nel Nuovo Testamento alcune pagine non scherzano mica su Gesù stesso, che diciamo che presenta un Dio così, poi quando vi parla del giudizio universale mi dice i buoni alla destra e i cattivi alla sinistra, e date maledette al fuoco eterno, che forse è la più terribile maledizione che risuona nella Bibbia. Cosa vuol dire questo? Allora, come spiegare simili aberrazioni nel confronto del Dio amore? Come passare dal Dio che comanda di uccidere al Dio che offre la vita per noi? Può andare? Allora, quattro di nuovo. Il velo del Tempio si squarciò da cima a fondo alla morte di Gesù. Annotazione storica o teologica? E cosa significa nelle prospettive del Nuovo Testamento? Cosa vuol dire per noi passare dal Dio che si chiude nell'ultima stanza, stanza dei santi del Tempio, al Dio che invece incontra tutti, Gesù Cristo? Anche questo è abbastanza chiaro, la sua proposta. E quinto era, dalla preoccupazione dell'ubbidienza alla gioia di assomigliare a Dio con l'amore. È un po' quello che diciamo sempre, no? Siamo stati abituati ad una spiritualità dell'ubbidienza. Gesù non chiede mai ubbidienza, ma si sforza di farci entrare in un comportamento di convinzione di gratuità. Perdonare 70 volte 7, chiudere e togliere l'altra guancia e lì poi entriamo nelle parole difficili, trattiamo a parte di settimana. Riconciliazione sì, ma intendere la riconciliazione come passaggio obbligato attraverso quello che abbiamo chiamato e unicamente il sacramento della confessione, come quello se ne passa dell'acqua sotto il ponte, del Nuovo Testamento. E sarebbe interessante però capire come si è arrivati sì, alla confessione. La ieri sera comunque. Quella discussione era proprio lì, sulla confessione. Come mai i cristiani, i cattolici oggi abbandonano questo sacramento, nonostante la prassi del passato, nonostante l'insistenza del Papa su questo argomento, eppure, e allora lì sono partiti da San Carlo e compagnia, è stato bello perché poi c'era il pastore protestante che loro hanno una specie di protezione, ma non è intesa in senso cattolico, l'ortodossia, il credente, è stato interessante, era su quel tema. Volevo dire a proposito di riconciliazione, c'è una bellissima tesi di Antonietta, sulla Antonietta, che insegnava Antonietta teologia, potente? Teologia morale a Firenze, e la sua tesi di laurea sì, era allora, la riconciliazione. Casomai la porti poi a vedere, forse l'aveva dato una copia anche a me, cioè una nostra amica, per modo di dire, soprattutto vostra, perché io non è che l'avevo incontrata tante volte, ma potente, sì, di nome, Antonietta, era stata anche mia allieva a penso a Rivoli, poi è andata a Roma, poi è diventata un pezzo grosso perché insegnava a Firenze e a Roma. E a Roma, poi insegna adesso in America, in Bolivia, e la sua tesi di laurea in teologia è sulla riconciliazione. Era un suo pallino fisso sempre. Sì. Quindi se leggetela, rileggetela, e poi la portate, me l'ha regalato una copia. E parlate poi un po'. A chiederci perché c'è la vita e allora cominciamo a dire che c'è qualcuno che ce l'ha. Allora c'è il peccato, c'è il bene e c'è il male, qualcuno che l'ha creato il bene e il male, ma perché questo? Ora io dico, dobbiamo limitare le nostre cose a quelle che sono concretamente, quelle che sono realtà nostre, darci le nostre spiegazioni e cercare di pensare. E penso che la scienza stia dicendoci che c'è un'evoluzione, un cammino, che la Desardin parla di un cammino verso qualcosa, anche dalla tua stessa. Ma io direi da scienziato, io dico da fisica di scienza. Dico che la morte fa parte della vita e viceversa, che la vita ha una sua trasformazione nella morte e poi si ricerca. Questo è importante, sono dei cicli eterni. Ma cosa è la vita? Ma questo è un altro discorso. No, ma lo facciamo! Quello che mi deve dire, questa cosa ci ha detto, non pensate alle cose di consumo, pensate alle cose di fare. Ed è questo un problema. Allora, facciamo dei credenti, e possiamo distinguere le cose, dobbiamo farsi capire da uno all'altro, cioè lei si deve comportare. Esatto, cominciamo a dare l'interpretazione umana, allora sì che siamo finiti. Ma tutto è interpretazione umana. La teologia, la filosofia, la stessa scienza sono interpretazioni. La scienza ha un'interpretazione, quante cose ha cambiato e nello stesso tempo si ripete delle cose fisiche, delle cose materiali. La filosofia e la teologia sono, compresa la fede come la esprimiamo, sono tentativi di interpretare le cose. Il campo può essere comune, la scienza si interessa delle cose a quel livello. Il filosofo, il teologo si interessa delle stesse cose a un altro livello. Distinguere i campi e mantenerli separati è certo un principio di saggezza e di sapienza. Tant'è vero che i grandi teologi del Medioevo, non so, penso adesso ad Anselmo d'Aosta, che ha l'espressione, avevano coniato addirittura l'espressione che in tutto sommato l'uomo dovrebbe pensare e agire etsi deus non daretur, come se Dio non ci fosse, perché è più onesto mantenere questa autonomia che ficcare Dio in tutte le cose a sproposito. Allora il discorso che noi stiamo facendo era proprio questo, andare a vedere in Gesù quali elementi possiamo trovare per essere onesti verso Dio e onesti verso l'uomo, no? Di modo che ci sia un tentativo di soluzione, di approccio a certi problemi, vedi, sofferenza del dolore, che lasci fuori Dio dai nostri punti di vista, perché Dio è certamente più grande, è certamente diverso da come riusciamo a immaginarlo o a interpretarlo. E ancora ne salvo d'Aosta che diceva che Dio è colui di cui è quello di cui non si può pensare il maggiore. E allora il mistero totale, non è vero. Ed è onesto che la scienza non fichi il naso nelle cose di fede, ed è altrettanto onesto e doveroso che la fede e la teologia rispetti l'ambito della scienza e cerchi di dare delle interpretazioni autonome, ecco, che saranno più o meno credibili a seconda di come si avvicinano al lume della ragione, e per i cristiani si avvicinano a una possibile esatta interpretazione delle parole di Gesù. Ecco, questo la litera. Oggi anche la teologia, se leggete Treverman, va in questa direzione, la creazione autonoma, la creazione che avvia creazione, dicendo creazione, diciamo già la natura, l'esistente, il finito, avviene e si forma e nasce, si sviluppa e si rinnova per delle forze centripete, diciamo così, e centrifughe verso il futuro attraverso l'evoluzione, che per il credente non è un qualcosa che è sfuggito dal cuore di Dio, dall'amore di Dio, è un qualcosa che sviluppa le energie vitali che Dio ha immesso fuori di sé nella creazione. Questo lo dice il credente. Il non credente può benissimo non credere in Dio e tentare di spiegare le cose che ci sono. D'altronde anche la scienza arriva al Big Bang iniziale, poi si ferma, se è vero è questo.